Si apra il sipario! Benvenuti signore e signori! Questa è la storia di gioia e di dolori, di una pistola e di un boato di silenzio. Qua si narra la vicenda di un uomo e del suo amore, di un amico, di una donna e 10 passi per sparare. Era felice, non poteva sapere. Lui amava, non sapeva odiare. Ma nel buio della sua stanza era l'amicizia a presentare l'odio all'amore. Il cielo piangeva lacrime quel giorno. L'odio le aveva consumate e non poteva piangere. Era la sua stessa amicizia a rubargliele. Ed il suo stesso odio a raccoglierle. Ed il suo stesso amore a piangere. Ed ecco a voi il duello! 10 passi e quell'uomo sarà morto. Vivevo per l'amore dell'amore che mi ha tolto. Gli ultimi istanti sono passi che percorro con orgoglio ad accecarmi i riflessi di quel sogno che ho perso. Cerco un senso dove tutto ormai si è spento. Basterà solo un momento ed un boato di silenzio porterà alla fine di un amico, di un amore, di un duello. Forza spara, tutti in un secondo senza far rumore. Forza spara, mettiamo fine a questa gara. Forza spara! Sparerò fino all'ultimo istante, l'ultimo colpo lotterò. Crederò in me, in questi ultimi istanti, in questi ultimi passi che ogni sogno. Forza spara, tutti in un secondo senza far rumore. Forza spara, mettiamo fine a questa gara. Forza spara! Lotterò con te, io resto qui. E spara, colpisci dritto al cuore. Forza spara, tutti in un secondo senza far rumore. Forza spara, mettiamo fine a questa gara. Forza spara! Mi volti dietro in un secondo che sarà. Spero che la mano non mi tradirà. Ho ricordi che mi passano, nella testa mi si affollano. Tutti i sogni che mi crollano. Tutto in un momento si dovrà decidere. Chi deve sopravvivere? La mia mente che mi dice non uccidere. Un cuore che non smette mai di battere. Un cuore che non vuole credere. E l'odio che per vincere uccise la sua fede. Lotterò con te. Forza spara, tutti in un secondo senza far rumore. Forza spara, mettiamo fine a questa gara. Forza spara! Pensavi di scappare dal tuo tradimento. Un amico si trasforma in odio e tutto questo in un momento. L'amore di una donna mi ricorda il suo tormento. Toglie la voglia di cercare il tuo colore dentro un'altra forma. Cos'è che mi ricorda questo giorno? Un'onda su uno scoglio che rifrange il suo bisogno di portare un sentimento diverso. Mi fa male ripensare al tempo perso. In un secondo senza far rumore. Forza spara, mettiamo fine a questa gara. Forza spara. Forza spara, tutti in un secondo senza far rumore. Forza spara, mettiamo fine a questa gara. Forza spara.